Si colora ma non è uno splendido tramonto, è la natura che ci chiede il conto senza sconto. Le esplosioni in cielo non sono fuochi artificiali, sono il risultato di tutti i vostri mali. E non servono ali, non si può volare via, tocca scontare la condanna della nostra malattia. Il fumo intorno a noi ci impedisce di respirare, il verde diventa grigio, sembra di soffocare. Per pagare il mutuo respiri veleni a lavorare, difendi il tuo assassino per tirare a campare. Capannoni tutti uguali globalizzano il mondo intero, l'asfalto ricopre i campi ed ogni sentiero. Pensi che chi ci governa farà qualcosa, ma porta polvere di amianto questa giornata ventosa. E tu rimandi la svolta, pensi di aver tempo per cambiare, ma il tempo è scaduto e non mi puoi più ascoltare. Il tempo è scaduto, non mi puoi più ascoltare. E allora? Salta, salta, l'hurricane sta per arrivare, mettiti in tiro e vai di corsa a ballare. Balla, balla, è molto meglio non pensare, sei una persona succedole solare. Allora salta, salta, la partita sta per iniziare, la tua rabbia in qualche modo la devi sfogare. Balla, balla, un talent sta per iniziare, prendi subito il cellulare, vai a televotare. Salta, salta, balla, balla, salta, salta, balla, balla, salta, balla, balla, salta. Sei stato assunto per fare uno stage, per fare formazione, ma non bastano mai corsi e pagamento di abilitazione. C'è chi si lamenta perché non riesce più ad assumere personale, per poter assumere deve licenziare. Un tempo c'era la pensione, ma ora sembra un'utopia. Un tempo c'erano i sindacati, ora è solo coreografia. Gente in divisa che fa quello che gli pare, gente divisa in guerra per un cellulare. Guerra fra poveri per diventare nuovi sfruttati, guerra ai diversi per essere accettati, guerra alla natura per continuare a lavorare, guerra agli animali per le tradizioni da rispettare, guerra a chi sta peggio per stabilire chi sono i più bisognosi, guerra a chi viene da fuori per stabilire chi sono i più mafiosi. Non puoi far niente se non sei raccomandato, mettiti in fila se paghi forse sarai più fortunato. Intanto salta, salta, la pericena sta per iniziare, chi ti vuole tranquillo l'alcol non ti fa mancare. Balla, balla, corri subito al centro commerciale, c'è una nuova offerta che ti sta ad aspettare. Salta, salta, se stai male nessuno ci bada, sono tutti occupati a giocare a Candy Crush Saga. Balla, balla, un nuovo iPhone da comprare, una nuova moda da seguire e adorare. Salta, salta, balla, balla, balla, balla, salta, salta. Ti parlano di patria, ma la Germania ci comanda. Ti parlano di democrazia e guai chi fa una domanda. Ti chiedono rinunce, ti chiedono sacrifici. Ora soffrirai ma poi ne vedrai i benefici. Se senti il batticuore e non sei innamorato, un nuovo farmaco che su di te viene sperimentato. E basta pessimismo, scarica la nuova app. Un tempo si chiamava sfruttamento, ora una startup. Ti butta via il cibo che non riesce a vendere, ti muore di fame perché non riesce a spendere. Chi si inciampa cade e nessuno l'aspetta, chi non vede chi cade perché va troppo in fretta. Chi conquista il potere con disonestà e per mantenerlo ripudia la libertà. Chi è preoccupato perché gli immigrati rubano il lavoro e non vede i politici che hanno uno stipendio d'oro. Chi pur di andare in TV è pronto ad ammazzare, chi vive di pensione solo per farsi notare. Salta, salta, la barra d'urso sta per iniziare, la loro verità devi credere e accettare. Balla, balla, non ci sono TG indipendenti, corsi, programmi interrogati, trasmissione deficienti. Salta, salta, bruci, variatore reale inglese, agenzia interina al controllo, negozi cinesi. Balla, balla, chef materassi, cronaca nera, notizie drammatiche con musica d'atmosfera. Salta, salta, bandiere militari, guerre giuste, ballette figuranti, soldi nelle buste. Balla, balla, per essere competitivo, molto demo, lo marchiamo nel settore produttivo. Salta, salta, perdi un altro dritto, conquistato a fatica, ma l'importante è il risultato della partita. Salta, salta, fai l'abbonamento Sky, tanto tu sei tutto positivo, sorride anche nei guai. Balla, balla, non preoccuparti della situazione stressante, per te è sempre pronto un nuovo tranquillante. Salta, salta, tutto è sempre una figata, non vorrei mica sembrare una persona triste e sfigata.